piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Cambia tutto, perché la vita del ragazzo ha due direttive nel momento in cui è a scuola. Una è orizzontale e una è verticale. E deve essere credibile, tu devi credere, devi vedere nei suoi occhi, negli occhi del professore, la passione di 50, 60 anni a dire cose che significano umanità, e tu lo penetri il professore in quel momento, sei con lui, questo è fondamentale. E la seconda è orizzontale, cioè i compagni. Non si può fare a meno dei compagni, non puoi non vederli, perché i compagni sono l'alterità, l'altro di te, sono il male, il bene, la gioia, l'amore, tutto quanto. Questo lo stanno perdendo i ragazzi e io ci soffro. Questo è Roberto Vecchioni che soffre da Mirta Merlino, con le sue ipotesi di ragazzi, non penetrare i professori, mi vengono i brividi. Poi sulla direttiva orizzontale non ho ben capito. Comunque, sta di fatto. Vogliatela come vogliate, vedetela come vedete, ricomincia un po' una vita di tran tran casalingo. Molti si troveranno i figli per casa con la didattica a distanza, cosa che è già accaduta a me. Mio figlio è già bello grande, quindi alla fine ci starebbe comunque. Non cambia moltissimo. Che figli piccoli avrà dei problemi. Cominciano le serate chiusi dentro casa, per forza, basta con i cinemini, basta con gli aperitivini, basta con le passeggiatine, basta con le discotechine, basta con le trombatine con gli amanti, si sta dentro casa, si guarda il muro, si guarda la famiglia, si fanno le stesse cose, con una differenza rispetto a quello che accadde a marzo, che non è uguale per tutti, esistono i gialli, gli arancioni e i rossi, e in base a quello possiamo invidiare qualcun altro. I rossi se ne stanno dentro casa, gli arancioni possono uscire a far la pipì al cane, i gialli stanno così in una sorta di limbo, e passeremo i prossimi mesi a proclamare il nostro diritto di essere gialli, di essere rossi e di essere arancioni. Per voi come cambieranno le cose? Io già vi ho anticipato ieri, ve lo posso gradualmente con prudenza dire, cercherò di farvi compagnia il sabato sera, che è la giornata peggiore. Il sabato sera è la giornata che abbiamo da secoli investito come la giornata dell'uscita dal mondo, della lussuria, del triste debito coniugale, della cenettina fatta meglio, del rimpannucciamento, dell'uscire con le amiche, di cercarsi fidanzati e via dicendo. Ecco, il sabato sera, comunque sia, dovunque voi siate, siate gialli, siate rossi, siate arancioni, ve ne state chiusi dentro casa. Cosa farete il sabato sera? Guardate la TV. Da soli o con chi vi sta vicino che già sonnecchia russa, vi mettete sui social, mandate i messaggini, fate tutto il giorno, sai che novità, vi rigirate sul divano con i calzerotti, con la tuta, avvolti nel plaid, guardate fuori dalla finestra, non passa nessuno, vi fate un selfie di voi che guardate fuori dalla finestra che non passa nessuno, lo scambiate con il selfie del vostro amico che sta alla finestra, guarda fuori nella strada, che non passa nessuno, e poi che fate? Ve ne andate a letto, vi prendete qualcosa perché avete l'insonnia da troppo tempo passato in solitudine. Io forse sarò con voi, ma ancora non so dirvi come, dove, quando. Se sarà, sarà questo sabato. Intanto passiamo al vostro grigio quotidiano di rinchiusi dentro casa. Io ho anticipato che rispetto alla volta precedente sarà questa asimmetria sul territorio nazionale. Lo considerate un motivo aggravante? Penserete che è fortunato il vostro vicino che abita a un chilometro dal confine regionale in cui vi trovate voi, perché lui magari può portare la spazzatura fuori, oppure lui magari può andare al ristorante a pranzo, a colazione, e voi invece nemmeno quello. Vedete di cercare di raccontarmi in maniera sincera, e cominciate ad abituarvi a raccontare, perché se staremo insieme il sabato sera sarete voi a raccontare, non è che ho molto da dire, posso solo andare a sfucugliare nelle vostre vite, trasformare le vostre vite in qualcosa di raccontabile, in qualcosa che assomiglia al romanzo. La trama poi la creo io, state tranquilli, voi basta che raccontate. Intanto voglio che raccontiate questa mattina qual è la cosa che più vi preoccupa, come cambieranno i vostri equilibri, già guardate in cagnesco la persona con cui passerete necessariamente tutte le notti, o già guardate con rimpianto e con sudorazione incipiente la persona con cui non passerete le vostre serate. 800 24 00 24, aspetto segnalazioni. Intanto mi collego con una delle amiche che probabilmente avrò con me il sabato notte, se riuscirò a stare in vostra compagnia. Maura Manca, buongiorno. Buongiorno Gianluca, un saluto anche a tutti gli ascoltatori. Maura Manca, la conoscete, psicologa clinica e psicoterapeuta, è quella bella ragazza con capelli rossi che c'è sempre in televisione, è presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, autrice di Leggimi nel pensiero, il suo ultimo libro che è un viaggio alla scoperta dei problemi dei nostri ragazzi, che esce per Mondadori, esce in un periodo in cui è difficile andare a comprare libri, ma comperatelo online perché vale la pena per chi ha dei figli da gestire, soprattutto in questo periodo. Tu che farai il sabato sera, Maura? A parte stare in compagnia tua... No, stare a casa, casa sua, purtroppo magari potessi, ma ti ospiterei volentieri sul mio maestro divanetto, ma non è possibile. Stai a casa. Mentre parlavi pensavo, in effetti, quello che potevo fare, bah, fondamentalmente... vediamo di attivare qualcosa, ecco, significa... Ecco, però Maura, renditi conto, l'unico periodo di reclusione comunemente condivisa, come eravamo abituati al tempo di ne usciremo migliori, viva l'Italia, Fratelli d'Italia, Italia sedesta, è che il sabato sera staremo tutti a casa. Durante la giornata saremo gradualmente distribuiti in chiusure più o meno potenti a seconda della regione e del colore della regione. Questo innanzitutto già crea un problema, secondo te, di accettazione rispetto al passato? Sì, è una novità, a parte che mi ha fatto sorridere alcuni che hanno reagito con ironia, quindi ci sono stati subito le prese in giro, i giochini del colore alla tua regione e tutte le altre cose. Ma questo dove quanto rideremo fra una settimana? Sì, ma questo denota proprio il fatto della confusione, cioè anche perché oggi siamo gialli, domani che cosa siamo? Cioè quello che io vedo e percepisco nelle menti è proprio questo, la confusione di quanto durerà questo, se poi cambiano le cose, cambiano le situazioni, quindi è come che in questi giorni ci sia una fretta di corro lì, faccio quello perché lo posso ancora fare. C'è la folla dai parrucchieri, c'è la folla in certi centri commerciali, supermercati, proprio perché noi lo possiamo ancora fare, però abbiamo paura che ci tolgano questa libertà e quindi dobbiamo anticipare i tempi. E questo la è come quel film, quel film degli anni del neorealismo, mi sembra di Sica, che c'era la voce, diceva fra 6 ore inizia la fine del mondo, e tutti pensavano di impiegare meglio possibile quelle ore. Queste ultime ore le stiamo impiegando chi va appunto dal parrucchiere, chi va a fare spese al supermercato, spero che non ci sia la corsa all'accumulo di lievito e di farina, come è sempre successo, e chi invece probabilmente si consuma la lussura degli ultimi incontri possibili, perché anche questo inciderà molto, il fatto che la sera comunque si sta tutti a casa e che comunque durante il giorno magari tu che abiti a 1 chilometro dal confine potresti andare a colazione fuori al ristorante, io che sto oltre questo confine non ci posso andare. Ecco, questo quanto comincerà a pesare, visto che eravamo già abituati a quello che accade, non è una novità, non è un gioco, non è l'euforia dei primi giorni in cui che bello, ci facciamo la pizza, tanto fra una settimana si esce. No, l'euforia è bella che è passata, ma anche la carta, sfruttiamo questo tempo come una risorsa e opportunità, ce la siamo già bella che giocata, diventeremo migliori e tutto quanto. Cioè, adesso forse credo che si debba iniziare a imparare che questa per un po' di tempo sarà la nostra normalità, perché altrimenti rischiamo di subire questo effetto yo-yo. Cioè effetto di dare, togliere, iniziare, non iniziare, e sta portando molte persone anche a non iniziare, nel senso a non fare nulla, perché dice tanto chi me lo fa fare, se faccio quello e poi mi bloccano. E questa condizione a livello psichico è pesante. Chi è già chiuso sa che per un po' di tempo rimarrà chiuso, chi non lo è vive in questo limbo, chi lo è non sa bene poi come e quando muoversi, perché poi dopo ha paura che tutto questo incrementi, per cui siamo tutti in qualche modo ingabbiati, in maniera un po' diversa, però lo siamo e siamo qui in quindi attesa. È anche l'andamento un divago delle prescrizioni che in fondo crea confusione. Diciamo, facciamo qualche piccolo esempio. Intanto invito ancora gli ascoltatori, visto che questo è l'argomento di cui tutti starete parlando, di chiamare all'800240024, vogliamo sapere voi come state vivendo questo momento e come vi state preparando comunque a questa nuova realtà. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno, è arrivato l'ascoltatore. Buongiorno, Francesco. Io sono sempre colpito dalla trasmissione, dalla curiosità degli argomenti. Ecco, volevo dire solo questo. Beh, oggi non è che ci vuole, Francesco, io le sono grato per la lode, ma non ci vuole la grande fantasia. Di cosa vuoi parlare oggi? Delle elezioni degli Stati Uniti? A noi non ce ne può assolutamente fregare nulla, in questo momento almeno. Ecco, del fatto che nel precedente lockdown, in cui sono stato costretto a ritirarmi nella casa di campagna insieme ai miei familiari, io vivo a Reggio Calabria, una casa sulla costa ionica. Siete rossi adesso voi, no? Siete rossi? Sì, siamo zona rossa, quindi da domani chiuderemo tutti e quindi avremo un periodo che saremo costretti nuovamente a casa e noi ci stiamo ritirando come Boccaccio che si ritirò nella... Ma voi andate al mare, andate al mare o rimanete diciamo nella casa? Guardi, ancora d'estate. Qui si possono fare i bagni, abbiamo una temperatura intorno ai 22 gradi, il tempo è bellissimo. Quindi ve ne andate, che non lavoreremo, state alla casa al mare? Sì, magari. E l'anno scorso... Però facciamo Francesco, mi interessa sapere la dinamica, perché è il problema che si pongono tutti quelli, una buona percentuale italiani che hanno una casa disponibile in una zona migliore che quella di città. Vado nella seconda casa e mi preparo a affrontare un periodo lungo nella seconda casa, vuoi campagna, vuoi mare, vuoi montagna, io una casetta in montagna ci stavo pensando, ma non ci vado perché lì non ho una rete sufficiente per poter lavorare, quindi devo rimanere qui, ma magari i figli stanno meglio a respirare l'aria. Lei come si sta organizzando? Ha un giorno di tempo, cioè fate le valigie, dice andiamo al mare o rimaniamo a casa? Ci sono state grandi proteste da parte dei miei, ho tre figli, due di 22 e uno di 17, i quali non volevano venire perché si sentono comunque tagliati fuori dal mondo. Ho garantito il fatto che si potranno collegare a internet, per tempo ho provveduto, quindi saranno connessi. A loro fa paura lasciare la città perché vuol dire tagliare radicalmente ogni possibilità di poter avere contatti con i loro coetanei, quindi ci dovremmo chiudere. Comunque, ecco, da questo punto di vista ci siamo adeguati. Tanto finché certo. Siete rossi, comunque queste possibilità sono limitate, quindi tanto vale che se ne stanno al mare e fanno il bagno, no? Però era l'idea, ecco, io su questo ho riflettuto, mentre stando richiusi in campagna con tutto che ci sia un piccolo parco, eccetera, c'è la possibilità di essere liberi però isolati dal resto del mondo. In città c'è la speranza che si possa rincontrare i coetanei, possa uscire. C'è questo elemento psicologico che non appartiene alla mia generazione, io ho 58 anni, per me era un luogo di sogno andare in campagna, per loro no. E vivono diversamente i contatti umani. Sempre quando c'è l'alternativa, sembra tutto bello, perché si sa che basta che uno poi monta in macchina, torna a casa e ritrova tutto quello che ha lasciato. In questo caso rischia che l'alternativa è per un tempo abbastanza lungo. Sentiamo Monica, poi Mauro Manca farà i commenti. Monica. Sì, buongiorno. Lei come si sta organizzando? Io in questo momento sono in una zona gialla, per cui diciamo che continuo ancora con... Fortunati gialli rispetto ai rossi in questo fortunati momento. Fortunati gialli rispetto ai rossi, però non si sa ancora per quanto resteremo in questa zona. Io volevo allacciarmi a quello che aveva detto Roberto Vecchioni, che si era sentito all'inizio. Sulla penetrazione degli insegnanti. Sì, io ho una figlia che frequenta l'università e degli universitari intanto con questi lockdown, con queste chiusure si è parlato molto poco, come se fossero già degli adulti che riescono ad arrangiarsi e in realtà sono diciamo dei giovani uomini, delle giovani donne che si affacciano alla vita e che in questo momento però trovano poco riscontro, secondo me, negli adulti tramite i docenti. L'esperienza di mia figlia è questa: da metà settembre al 30 di ottobre sono state caricate tutte le lezioni online e quindi uno si collegava ma non vedeva un docente, non vedeva una persona che parlava, poteva leggere delle dispense o dei materiali che erano stati posti nel sito. Dalla fine di ottobre, quindi, per loro non c'è più stato nessun tipo di rapporto, neanche questo delle lezioni caricate. Quindi mi chiedo perché non si lavori anche per creare dei protocolli per i docenti e nel loro rapporto fra docenti e ragazzi. Diciamo, leggo il sottotesto studenti. Di quello che dice lei, dice docenti, potrebbe, sono docenti universitari, quindi con maggior disponibilità di tempo, maggior retribuzione, maggiore elaborazione, si spera di poter vivere la contemporaneità, perché non si organizzano anche i docenti, al di là dei protocolli e regolamenti, di organizzare qualche Zoom con i loro, perlomeno i laureandi o quelli con cui vogliono in particolare svolgere un rapporto particolare, invece che mettere le dispense lì e per loro il problema è finito. È una domanda bella, noi ci fermiamo un istante e poi riprendiamo. Sono tante le persone che stanno chiamando. Melog 800240024. Oggi stiamo analizzando i preparativi per quella che sarà la nuova fase reclusiva dell'Italia, questa volta diversamente colorata. Ho con me Maura Manca, psicologa e clinica e psicoterapeuta, che mi aiuta avendo lei una vasta esperienza di analisi dei vari membri della famiglia che in maniera alternata si rivolgono appunto alla psicoterapeuta per risolvere alcuni loro problemi. Secondo te, Maura, saranno più i genitori che si scocceranno a avere i figli per casa o si romperanno prima i figli, ormai abituati a una nuova riuscita, quindi una riconquista della libertà, a doversi stare tipo il sabato sera sigillati in casa con papà e mamma? Ma io credo tutte e due, nel senso che siamo tutti molto stanchi, cioè la verità è proprio questa: stiamo affrontando questa nuova reclusione in tanti casi stanchi, affaticati, stressati, delusi, arrabbiati. Spero che tutto questo non si riversi dentro le case, ancora più, cioè che le emozioni individuali non si rinforzino e diventino quelle poi del nucleo familiare, perché allora la convivenza diventa un po'... Cioè un si po' comincia a litigare come bestie dentro casa come prima non si faceva. No, esatto. Spero, tu hai spero visto, hai no. visto la, tu hai, nella prima fase, avevi osservato... dal tuo osservatorio diretto, i tanti ragazzi che tu vedi, i loro familiari che tu vedi, rispetto all'anno prima, ecco, facciamo un esame così, verso aprile, maggio, che tu cominciavi a rivedere le persone, a risentirle, rispetto agli stessi problemi che tenevano l'anno prima, c'era stata una mutazione importante nei rapporti, nei problemi, nelle tensioni, nelle domande, nelle angosce? Cambiamento a livello di abitudine o di schema proprio di mentale, quindi non era, soprattutto nei più piccoli, particolarmente marcato, perché loro avevano preso una fase come se fossero andati in stand by, cioè io ad ok, c'è questo periodo, c'è questa situazione, vado un attimo in stand by e poi dopo torna tutto come prima. E quando non è tornato tutto come prima che è sorto il problema, e quindi oggi andiamo a sommare quello di prima e avremo quello di oggi, ma con tutti. Io ho tanti genitori che stanno iniziando ad avere, mi ha scritto anche ieri una persona, un'altra mamma, oppure anche persone che non hanno figli che mi dicono: sto iniziando a sentire ansia in casa, a vivere tutto un po' come un'invasione. Sono quasi una sorta di disturbi, tra virgolette, perché non è che sia un disturbo dell'adattamento, cioè più che patologie psichiatriche stiamo parlando della difficoltà di riadattarsi, perché poi adesso non sappiamo quando finirà. Cioè la verità è questa: se prima ci dicevano aprile, un mese, stringiamo i denti, facciamo il sacrificio tutti insieme che finisce, ora è forse stiamo realizzando in questo momento la vera situazione. Quindi no, poi la cosa, secondo me la cosa più spiazzante, Mauro, è che fino a 3 giorni fa nessuno osava pronunciare l'indicibile termine di reclusione, lockdown. Tutti, no, non lo rimanderemo, quando già si sapeva che prima o poi qualcuno doveva stare dentro casa, se no non si fermava. È stato necessario far vedere nuovamente una fila di ambulanze che aspetta di far ricoverare le persone al suo interno, perché la gente finalmente ha detto la parola impronunciabile. In questa sorta di ipocrisia, non dire mai le cose con il loro nome, si è creata magari un'attesa, un senso di diluizione dell'allerta rispetto a tutto, a quello che sta accadendo, secondo te? Perché è paura di dire le cose con il loro nome? Esatto. Cioè, io lo comprendo psicologicamente, che è come quando non si vuole mai parlare di malattia o di morte, certo, come se fosse un po' allontanarli da noi. Io invece ho fatto proprio il contrario. Da settembre, con tutte le persone che sento e che seguo, io ho detto: iniziamo a predisporci, a prepararci che probabilmente ci sarà una nuova chiusura. E quindi preparate anche i vostri figli, ai genitori, ma anche gli adulti. Io ho detto: prepariamoci, se siamo pronti non ci impatta, non dobbiamo avere paura di parlare anche di ciò che ci spaventa. È questa cultura che secondo me noi dobbiamo inculcare, cioè essere pronti non significa essere negativi, perché molti dicono: sei negativa, non voglio nemmeno non sentirle parlare, sì, il corvo del malaugurio, questo mi dice, non ne voglio nemmeno sentir parlare, porti sfortuna, sì, tutti a farle corda, sì. Non vi basteranno le dita adesso per stringervi gli attributi rispetto a quello che sto dicendo. Elena, buongiorno. Elena. Buongiorno. Sì, praticamente ha detto molto adesso la psicologa. Cioè io persona illuminata, se no la chiameremmo qua, certo. Sì, aspetti che tolgo viva voce. Ecco. Fatto, sì. Allora, però vorrei un aiuto. Io sono, oltre che essere una persona sola in casa e quindi che sto cadendo in depressione perché non il vedo sabato il sera cosa fa, Elena? Il sabato sera cosa fa? Allora, il sabato sera sto a casa a guardare la televisione. Beh, sabato se va tutto come spero. Non è il sabato, prima mi sono permesso il sabato andare a casa di amici a Milano, ma adesso vivendo nella zona rossa non potrò andarci. Potrà raccontarmi quelle che sono le sue aspirazioni, i suoi desideri, la sua vita, i lati. La mia aspirazione, io vorrei dare anche voce a un'angoscia fortissima. Sono una negoziante. Vabbè, ma se la voce l'angoscia, angoscia agli altri. L'angoscia sì, ma eviti, scusi, di parlarne. Perché no. non devo parlare di una. Da cosa è data la sua angoscia? Benissimo, da cosa è data la sua angoscia? Io sono una negoziante che andrà a finire a chiudere. E io non questo capisco quando danno delle regole, sono abbigliamento, perché io devo fare subire la concorrenza di una grossa di Amazon che può vendere tutto quello che io non posso vendere. La sua angoscia è oggettivamente legata a una sua situazione economica. La serenità economica è la base di ogni nostra privata serenità. È ogni nostra serenità. Sì, perché vorrei, se uno vorrei capire come posso aggredire la mia paura, darmi forza, su che basi posso, visto che questo c'è è il lavoro di Mara Manca, non è il mio lavoro e non credo che le possa fare esattamente una sorta di analisi indiretta, però quello che le posso dire io è più ci pensa e più lo vede come un'angoscia, peggio è. Più si arrovella di trovare una sua soluzione perché il suo lavoro possa continuare comunque in qualche altra maniera, e più si avvicina magari a trovare serenità. Perché sennò Amazon è un colosso talmente enorme che tutti le diranno: ma che vuoi te con la tua piccola attività? Lei deve trovare una via d'uscita concreta, perché il problema è di tipo concreto, non è un problema impalpabile, interiore, dato da depressione, dato da problemi di tipo psico, è un problema reale. Ha chiuso il negozio, dice: comperanno tutti su Amazon, a me non comprerà più nessuno. I problemi reali, secondo me, si risolvono con soluzioni di tipo reale. Comunque, se il sabato sera sarò aperto, casa mia sarà aperta, l'ascolterò con più attenzione. Giovanni. Buongiorno a tutti, sono un autotrasportatore e io abito nelle zone di Milano. E per me il problema di prepararsi alla chiusura non esiste proprio, in base al fatto che la prima volta eravamo sempre in giro e abbiamo girato sempre. La mia paura, più che paura, è quello che sto vedendo in giro per le strade, per le autostrade e per i negozi, che dopo che finisce tutto questo ci vorrà un DPCM per il riavvicinamento sociale. Che è un po' difficile stabilirlo come regola, perché il riavvicinamento sociale passa per strade abbastanza impalpabili, non definibili attraverso leggi e regolamenti. Se ho paura di star vicino alle persone, se perdo l'attenzione e quel livello di sopportazione degli esseri umani, che mi abituo a star solo, possono fare quanti decreti vogliono, continuerò a star solo, lo assicurando persone come appunto Mauro Manca, che ci aiuti a ritirare fuori degli strumenti. Ma spero che questo non accada, spero che noi elaboreremo una nuova maniera di star vicini, una maniera più centellinata, meno diretta, più scadenzata secondo dei ritmi che ci impone appunto la pandemia. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800 24 0024. Non sempre ci sono soluzioni a tutti i problemi, non sempre parlando si risolve tutto. Mauro Manca, mi dispiace dire alla signora angosciata per un problema reale e concreto, che non è un problema psicologico, è un problema concreto. Forse ho sbagliato. Ma no, nel senso che ci sono dei problemi oggettivi di difficile risoluzione. Quello che è importante oggi per non farsi schiacciare, ma quello di Amazon non è un problema legato solo al Covid comunque, cioè certo, i negozi online sarebbe comunque, è un problema. Certo. Esatto, cioè stava come quando avevano aperto i centri commerciali e stavano affossando un po' le vendite al dettaglio, quindi il Covid è indubbio che abbia amplificato ciò che comunque era già esistente. Dai primi telai a vapore che si pone questo problema, diciamo, esatto, la verità. Io ho visto delle persone riadattarsi ai tempi, quindi fare un po' la vendita porta a porta, a domicilio, anche i negozi singoli iniziare a vendere sui social, a vendere online, perché la clientela fissa di un negozio così non si perde. Cioè, quello che il segreto vincente per non farsi schiacciare è adattarsi a quello che è la situazione del momento, perché se aspettiamo che la soluzione ci citofoni a casa, difficilmente avverrà. Quindi quello che io dico è: reagiamo e tiriamo fuori tutti gli strumenti che abbiamo e cerchiamo di sfruttare il tempo, perché anche certi parrucchieri, per esempio, quando erano in lockdown totale, portavano a casa le tinte, davano quello, alcuni servizi, tipo, allora hanno continuato a vendere, cioè c'è stata una continuità e hanno reagito. Io credo che dobbiamo fare un po' tutti questo in qualsiasi situazione. Il vantaggio, nessuno fa più fila dal parrucchiere, perché adesso devi prenotarti online e mi sembra un punto. Le ricette mediche ti possono arrivare online, prima di stare ore dentro l'ambulatorio a respirare il catarro di quelli che facciano la fila assieme a te. Alcune cose sono cambiate, sembravano impossibili, sono state cambiate. Non cambierà tutto e non sarà tutto così immediato. L'importante, e sono felice che tu dica quello che hai detto, perché sono perfettamente d'accordo, ho aperto questa stagione parlando appunto dei punti di ripristino. Chi cerca punti di ripristino è già sbagliato in partenza. Cercare di ristabilire delle condizioni in un periodo in cui eravamo, ci sembrava di essere meno angosciati, non serve a nulla. Il tempo non torna indietro, almeno in questa dimensione come la conosciamo. Carlo. Pronto, buongiorno Nicoletti. Sì. Allora, io vengo subito al sodo. Dunque, in tutto questo gran casino che c'è, si è dimenticata una cosa, cioè non solo le persone deboli, ma quelle che stanno finendo. Arrivo al punto. Io sono, diciamo, tramite l'ACAT, seguo le persone che hanno problemi di alcol. Da molto tempo prima del Covid, 7 anni esattamente, avendo io avuto 7 anni fa problemi di alcol, e sto assistendo a delle cose che non riesco assolutamente a capire. Per esempio, il nostro problema veniva trattato tutti i lunedì, con tutti i distanziamenti, le mascherine, tutto quello che vuole, in una sala offerta dal comune. E con questo nuovo, già da 2 settimane, provvedimento, chiamiamolo così, a noi è stata negata la necessità di incontrarci. Era una cosa fondamentale, perché non si tratta solo di problemi di alcol, ma si tratta anche di persone sole persone che fanno uso smoderato di psicofarmaci, ludopatici e ultimamente. Insomma, ma qual è la soluzione? La soluzione che lei propone? È chiaro che ci sono tanti pezzi che stanno perdendo per strada, ma è fatale questo. Il suo è un pezzo importante, ve lo diceva, l'assistenza che noi davamo ad alcolisti anonimi, adesso non so cos'era, persone con dei problemi, richiedeva un contatto diretto, non bastava vederli via Zoom, penso, no? No, ma... no, no, c'era anche, scusi se lo interrompo, sì, diciamo non un obbligo, però se chi voleva, di scrivere un diario, ognuno lunedì prendeva il suo diario, lo portava a casa e aveva una settimana per scriverlo. Tutto questo non ci sarà più. Ma non riuscite ad ovviare con mezzi informatici, cioè, Mauro Manca e molti suoi colleghi hanno necessariamente continuato a vedere i loro pazienti via Skype, se no cosa, mica li potranno abbandonare. No. Nicoletti, mi scusi, non, pazienti non va bene, non è una malattia. Ho parlando di quelli di Mauro Manca, ho detto Mauro Manca poteva vedere i suoi pazienti, tanto più lei può vedere i suoi colleghi alcolisti attraverso i mezzi informatici. Sì, vabbè, Marco, abbiamo esposto il problema, Carlo, abbiamo esposto il problema, non so che dirle, sinceramente, mi dispiace, dovete trovare un'alternativa dal momento, in questo momento non ci si può riunire, c'è poco da dire. Mauro, ha parlato? Sì, ciao sì. Nicoletti, ben trovato. Mi dispiace essere drastico e trasciamo, ma cosa posso dire io di più di quello che ho detto? Dico, se ci sono medici, psicanalisti, psichiatri, psicoterapeuti che continuano a seguire i loro pazienti attraverso i mezzi informatici, probabilmente penso che anche un alcolista in via di risanamento possa seguire il suo terapeuta, anche se non è una malattia chiaramente, attraverso i mezzi informatici, se vuole uscirne. Mauro? Sì, io voglio andare un po' controcorrente e dire che da questa grande situazione, da questa tragedia, ci sono insegnamenti che probabilmente, a mio avviso, hanno fatto anche bene. Finalmente ci siamo liberati dell'attaccaticcio, delle mani sudate, della gente che ti parla un centimetro alla bocca. Finalmente abbiamo uno spazio vitale da gestire e anche insegnamenti di igiene personale che ormai questo è giusto, Gabriele, questo l'ho già detto, non si sente più la fiatella del nostro prossimo, mi sembra qualcosa di meraviglioso, però il prezzo si sta pagando è veramente molto alto. Mara Manca, a te la conclusione. Mi rendo conto che non è il mio mestiere ascoltare gli altri, lo sai far meglio di me, perché anche agli alcolisti non sa più cosa dire più di quello che ho detto. Vediamo se tu riesci a recuperarmi un po' di terreno. Il problema che sollevava Carlo è un problema reale, più che altro a me sembra assurdo che abbiano chiuso determinate cose e determinate situazioni. Ecco, quello che diceva lui è questo, cioè nella sicurezza quando c'è la salute. Cioè, qui stiamo parlando di salute, tutto, perché anche determinate tante persone hanno interrotto le cure, hanno interrotto i sostegni, hanno interrotto, quindi i privati. Gente non fa le chemioterapie in questo momento, perché esatto, ci sono delle vittime collaterali. Ci sono delle vittime fortissime, certo. Quindi lui stava sollevando un problema più generale che è molto importante. Quando è così, purtroppo, tanto loro non lo risolvono in questo momento, come dici tu, allora risolviamolo noi. Cioè, in questo caso si usa l'online, magari ci si incontra più spesso perché l'efficacia è diversa e si crea una continuità e una vicinanza che non è fisica, non sarà efficace quanto un incontro vis-à-vis, però non è il vuoto, non è il niente. Quello che dicevo io è adattiamoci, se loro non ci danno gli strumenti per farlo non soccombiamo ma reagiamo. Il discorso dell'università, per esempio, è vero, noi abbiamo parlato pochissimo degli universitari, ma molti, immaginiamo le matricole abbandonate completamente a questo nuovo sistema. Allora senti Maura, siccome la sigla ti porta via, non ti voglio drasticamente interrompere, e tu sarai un ospite privilegiato anche nei prossimi giorni, perché saremo in pochi ad avere voglia di parlare stando dentro casa e tu sarai tra loro. A tra poco, alla prossima.